lavorato con questa tecnica che si chiama, la chiamiamo noi riallacciare i fili. Nel corpo si creano delle fratture, delle scissioni, non so più bene dove sono i piedi, come le ginocchia, le anche, ognuno di noi ha le sue zone di inconsapevolezza. E vi ricordo le parole di Lowen, fondatore della bioenergetica, che dice: l'inconscio sono le parti del corpo che non sento più. D'altra parte, un altro grande psicologo, psicoterapeuta junghiano, Hillman, dice: l'inconscio oggi è l'economia. Mettete insieme l'economia, le parti del corpo che non sento più. L'economia, shopping, dolciumi, bevande di ogni tipo, drogate di tutti i tipi, droghe legali e illegali, separazione dal corpo. Separazione dal corpo, separazione dalla coscienza. Separazione dalla coscienza vuol dire separazione dal nostro centro, dalla nostra anima. Separazione vuol dire paura. Paura vuol dire dipendenza. Chi è pauroso, chi ha paura, è sempre in posizione di dipendenza. Punto. Ora il quadro, l'ho fatto sinteticamente, ci avete tutto. Vi ho fatto questo perché mi piacerebbe che voi foste come il secondo di due scalpellini. Ce n'era uno a cui una persona chiese: scusa, cosa stai facendo? Lo vedi, sto spaccando una pietra. Ed era di cattivo umore. Si rivolse al secondo scalpellino e disse: cosa stai facendo? Quello radiante disse: sto costruendo una cattedrale. Allora, se vi rendete conto che mentre fate questi esercizi state liberando voi stessi il mondo, il rapporto con queste piccole esperienze è un rapporto sacro, altrimenti è semplicemente una variante dello shopping e del consumismo. Possiamo fare migliaia di questi esercizi senza che succeda assolutamente nulla. Il potere si protegge dai veri rivoluzioni perché ha creato nel mondo, negli esseri umani, una struttura adibita al consumo. Ma consumo, l'etimologia, cosa vuol dire? Cosa vuol dire consumare? Consumare vuol dire distruggere. Quindi fai un'esperienza, non importa, dentro la tua testa c'è già il centro di potere che la distrugge, sereno, che non succederà nulla. Ecco perché io vedo persone che frequentano corsi di ogni tipo per 10, 15, 20 anni, succede niente. Perché vanno a finire dentro quell'ottica del consumo, della formazione, che ormai è di moda, basta. E quindi, siccome non funziona mai nulla, poi si cercano sempre di più le scorciatoie, che non esistono. Ecco. Okay? Scorciatoie non ci sono. C'è l'impegno verso una salita gioiosa, quello sì. Quello sì, gioioso, un impegno gioioso.